in diretta per questo lunedì con questo appuntamento così un po' incoerente, non sempre presente, ma quando ve n'è la possibilità, ben contento di portare qualche label o qualche situazione musicale atipica o particolarità fra elettronica, ambient, EDM e tutto quello che è una sonorità denominata, o almeno così ho deciso, altri suoni. La sigla è di Jan Jalinek per la Touch Record, il brano è Silver Circle. Oggi parliamo di una label tedesca, è molto presente fra l'altro nelle playlist in quanto i suoni sono quelli nell'immediato, il post acid jazz, quindi siamo a metà, circa poco prima degli anni 90. L'EDM, l'elettronica, l'esempio della Warp, incontra in questo caso il drum and bass, la bossa nova e anche quella che è una sonorità che porta un aspetto accattivante, flirtando con quella che è l'exotica cocktail music. Questo ne è un esempio. Iniziamo, ascoltiamo due o tre brani in questo breve spazio che ci porta ai magazine. Loro sono Legama ed è il brano che vi porto, Otra Vida, è tra l'ambient e le sonorità dense di tropicalismo. Il fondatore Michael Rainbow nel giro dei Jazzanova, la label a base a Monaco e tutto quello che ancora è in attività, come vi ho detto, in maniera assolutamente anche molto gustosa. A tra poco. Cocktail music, erroneamente chiamata lounge music, uscirono diverse raccolte che fecero più danni che la grandine, come il Buddha Bar, il Costess, dai costi fra l'altro esorbitanti, oggetti più da tenere sul caminetto nelle ville di personaggi abbienti più che dischi di qualità. Ma in tutto questo contesto che viene racchiuso in lounge da un tempo, sempre con sfondo elettronico, con rimandi di exotic music, beh, abbiamo invece della qualità in altre situazioni. L'esempio Legama, dal tropicalismo all'ambiente elettronico, sempre con ritmica da un tempo. Faccio altri esempi, abbiamo ascoltato i Thievery Corporation, i geniali Kruder and Dorfmeister, il ritmo dub di Busu Baju, per cui bisogna sempre nell'ascolto scindere la qualità rispetto a una commercializzazione ben più immediata, reiterata e banale. Compost in questa frangia con Lega Mass con Minus 8 ha portato sonorità di grande qualità oltre che di gusto. Per l'elettronica meramente più definita IDM, i Fauna Flash, che vi propongo con questo brano, nella produzione invece più ritmata, anche con divagazioni drum and bass all'interno della Compost Record, sono stati protagonisti, come ad esempio il progetto Beanfield. Rome is all over. Esta nature will heal ya. Found sound in a fauna flesh, della Compost, cito ovviamente Truby Trio, aggiungo la realtà dei Kyoto Jazz Massive, le sonorità strumentali e jazz non mancano, come potete ben sentire, lo stesso progetto Forest Might Black che abbiamo ascoltato e remixato qualche giorno fa, fino ad arrivare a quello più rappresentativo che ascoltiamo spesso, i Jazzanova. In conclusione a questi poco più di 10 minuti per altri suoni nella puntata di 26 giugno 2023, direi di aggiungere Beanfield per quanto riguarda un tempo broken spezzato in quattro quarti, ma appunto spezzato in maniera così asincrona. Quindi vi lascio con questo brano di Beanfield, Reaction, pubblicità, poi ufficialmente l'inizio dei Magazine. A tra poco.